quando mani in tasca sparra un calcio alla città con l'occhio cinico deluso di chi non sa perché ci sta. Guarda terra e marciapiede e si chiede la sua età. Qualcuno attende ancora l'ultimo tram, barcollando gli ubriachi a braccia strette se ne vanno, e qualcuno si ostina ancora a non avere sonno. Come lui.